Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Sono una cittadina italo-francese che vive in Italia da 10 anni circa e sono mamma di 2 bambini in età di scuola primaria. Quando ho deciso di trasferirmi in Italia, ero molto fiduciosa e convinta che, nonostante tutto, questo fosse un paese dove lo spirito della gente, la creatività, l'apertura mentale prevalesse sui tanti difetti che ha. Dopo questi anni, purtroppo, mi sento profondamente delusa e, in particolare, provo un grande sconforto vedendo quello che sta accadendo in ambiente scolastico. Vivo a Parma e mio figlio di 9 anni fino ad ora ha frequentato un'ottima scuola statale in una classe a tempo pieno, dove sia la proposta didattica che le insegnanti sono state eccellenti. L'anno prossimo mia figlia di 6 anni andrà in prima e ad ora nessun dirigente scolastico è in grado di dire ai genitori se sarà possibile fare classi a tempo pieno, perché non hanno idea di quale organico avranno a disposizione. Di conseguenza le iscrizioni alla scuola pubblica sono notevolmente diminuite e le scuole private hanno liste d'attesa. Chiedo se i genitori che lavorano e senza famiglia appresso e senza soprattutto strutture educative alternative dovranno pagare per occupare i propri figli per lavorare? In questo momento di crisi pensate che le famiglie abbiano bisogno di questo? Non era meglio tenerli a scuola con attività didattiche e non con uno scarso doposcuola? Ma quale paese decide di risparmiare sulla scuola e sull'educazione dei ragazzi che domani avranno in mano il nostro paese per privilegiare i piccoli interessi di vecchie caste politiche? La situazione non è rosea in nessun posto al mondo in questo momento, ma quando vedo che si fanno dei passi indietro rispetto a conquiste democratiche e sociali come la scuola, mi piange il cuore. Caterina, Parma. Mi rivolgo al governo, sperando che la lettera venga ascoltata. Abito in un paese del Friuli Venezia Giulia. Attualmente la scuola primaria che frequenta mia figlia è a tempo prolungato. Significa che ci sono alcuni pomeriggi e non il sabato. Martedì scorso è stato indetto un incontro per informare i genitori sulle nuove disposizioni. Quello che abbiamo capito è che la scuola ha la facoltà di effettuare il tempo prolungato, ma visto che la parte economica e quindi le risorse vengono tagliate, di fatto si sarà obbligati a togliere il tempo prolungato. Se poi ci sarà un pomeriggio alla settimana, questo non potrà più essere servito dalla mensa scolastica, in quanto le risorse non permetteranno di pagare le ore alle insegnanti per la sorveglianza degli alunni in tale orario. È inoltre emerso che l'eventuale modifica dell'orario scolastico non si saprà fino a giugno. Ho anche un figlio che frequenta il primo anno delle secondarie e le voci sono le stesse. Non capisco se questo sia un effettivo risultato dell'azione di governo oppure un'azione terroristica volta a coinvolgere i genitori per motivi politici. Esistono ben 3 canali TV, RAI, a disposizione dello Stato, oltre a radio e internet. Sarei grato al governo se non si stancasse di spiegare dettagliatamente e a più riprese l'evoluzione delle grandi manovre che coinvolgono direttamente i cittadini, di modo che possano essere smentite o avvalorate le affermazioni degli esecutori come nel caso sopra descritto. Chiedo di rimanere anonimo, perché timoroso di una eventuale ripicca nei confronti dei miei figli. Si fa un gran parlare della necessità di avvicinare i giovani alla lettura, ma anche quest'anno la Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna si tiene solo per operatori del settore, ad invito, con la clausola dell'ingresso vietato ai minori di 18 anni, manco fosse una kermesse a luci rossi. Lo trovo ridicolo, oltre che lesivo nei confronti degli eventuali fruitori a cui sarebbero indirizzate le pubblicazioni, primi attori assoluti, che avrebbero tutto il diritto di dire la loro su quanto gli adulti, nel chiuso del loro ristretto clubettino, cercano di propinare loro. Un paio di giornate aperte e dedicate ai ragazzi di tutte le età aiuterebbero forse a capire maggiormente i gusti dei giovani, con un ritorno economico sicuro, facendone anche un'occasione di incontro con gli autori e di vendita dei nuovi prodotti. Armando. Guardando i vari servizi del TG, ho assistito alla miserevole farsa del giuramento sulla nostra Costituzione del neo segretario del PD. Ma il signor Dario Franceschini non è forse italiano? Solo il fatto di avere questa purtroppo bistrattata cittadinanza impone a tutti il rispetto di tutte le leggi del nostro favoloso paese, Costituzione compresa. Forse avrebbe fatto meglio ad utilizzare quel tempo per cercare di avere nuove idee e nuovi programmi per il nostro paese, senza continuare a menarla con il dittatore Berlusconi. Io non sono un elettore di destra, ma ormai il dagli al Berlusconi ha stufato. Certo che se il cassetto delle idee è tristemente vuoto, non rimane che continuare con queste inutilità e spingere il paese in un clima da anno 1948. Il giuramento del signor Franceschini lo paragono al prelievo dell'acqua del signor Bossi alla sorgente del Po. Sono solo simbolismi per gabbare gli ingenui. Enrico. Dario Franceschini rappresenta l'ennesimo precario del PD con contratto a progetto. Vorrei ricordare in proposito la pagliacciata del giuramento sulla Costituzione, che proprio il neosegretario del PD dimostra di non conoscere, perché l'articolo 93 riserva tale obbligo solo alle alte cariche dello Stato. Guglielmo. Vivendo in una città che negli ultimi anni ha registrato un sensibile peggioramento in termini di sicurezza, vorrei esprimere un modesto parere in merito al tema attualissimo delle ronde o presunte tali. Sono assolutamente convinto del fatto che non ci si possa fare giustizia da soli e che non debbano esistere forze armate parallele. Credo però che l'esistenza di gruppi di cittadini che presidino i quartieri delle nostre città nelle ore notturne, segnalando eventuali eventi criminosi alle forze dell'ordine, non possa che essere un deterrente utile a prevenire una buona parte dei reati. Credo che sia abbastanza banale ricordare come i migliori alleati del degrado e della criminalità siano buio e strade deserte. Una ronda composta da normali cittadini che si limiti a presidiare il territorio, divenendo un naturale deterrente al crimine, solo per la propria presenza non può che essere considerata positivamente. Trovo personalmente ingiustificato l'allarmismo diffuso dai soggetti politici contrari a tali iniziative. Nicola, Padova. Scrivo dal Canada. Mi domando cosa succederà il giorno che qualcuna delle ronde dovesse rimanere uccisa durante un incontro con un lestofante, oppure nel caso un rondino dovesse uccidere qualcuno anche per legittima difesa. Quale sarà il limite della legittima difesa? Far parte di una ronda sarà considerato un attenuante? Fabio. Non sono ideologicamente contrario alle ronde. Ho solo un dubbio per i falsi allarmi che potrebbero ingenerare, ovvero il fatto che una ronda in perfetta buona fede possa segnalare alla forza pubblica un'ipotetica situazione di pericolo che però poi non è tale. In questo modo si distoglierebbe la presenza della forza pubblica, che magari potrebbe essere impiegata in situazioni di pericolo reale. Il problema, secondo me, è un altro. È vero che all'estero di ronde non ce ne sono, ma all'estero non esistono nemmeno giudici onorari che annullano decreti di espulsione su cittadini stranieri che hanno una lunga fedina penale. Non esistono giudici che mandano ai domiciliari chi commette atti criminosi. Non esistono giudici che non condannano al carcere chi in stato di ubriachezza e sotto effetto di stupefacenti fa un frontale e uccide una bambina di 3 mesi. Giuseppe, Sesto San Giovanni. Riguardo alle ronde, io non regolarizzerei nulla. Si rischia di fare confusione e dare patenti di vigilantes a comuni cittadini. Detto questo, siamo in un paese libero, dove si può circolare in gruppo senza arrecare disturbo alla quiete, senza problema. Nessuno può chiedere le generalità o i documenti, ma chiunque, anche ora, può arrestare un malvivente in flagranza di reato in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. Ho idea che molta gente non sappia questa cosa. Simone. Perché nessuno si è mai scandalizzato delle ronde di cittadini che vigilano sul vicino di casa, che ristruttura casa, creano dossier fotografici, li inviano alla procura, denunciano, fanno esposti, eccetera. Si chiamano guardie ambientali volontarie. Stefano. Riguardo alle ronde, il problema è quello che noi italiani non viviamo più le nostre città. Ci chiudiamo in casa. I giovani sono sempre meno e, tra l'altro, non sono in grado di difendere nessuno. E se noi vedessimo le iniziative come quella delle ronde solo come un modo per far rivivere le città? Un modo per stare in mezzo alla strada? Perché non ci si può lamentare che magari questo o quel centro storico sia in mano agli extracomunitari, se poi noi non abbiamo nessuna voglia di starci, perché ogni volta ci inventiamo una scusa per non andarci? Ippolito da Pastena. Ma che ronde e ronde? qui la verità è che le forze dell'ordine per le strade non ci sono più. Quanti reati tra quelli denunciati sono stati positivamente risolti? Quante indagini sono andate a buon fine? So di chiamate ai carabinieri durante furti in appartamenti, alle quali ci sono state risposte del tipo «Resistete, veniamo quando possiamo». Si presentano sbadigliando dopo 3 ore e quando vedono qualcuno con il fucile da caccia regolarmente dichiarato lo denunciano per uso improprio. So di una persona che ha preso un ladro nella sua auto e lo ha picchiato. È stato condannato a 2 anni per lesioni, mentre il ladro ha avuto solo 6 mesi per furto. Giovanni. Egregio direttore, in relazione ai protocolli appena sottoscritti tra Italia e Francia, le chiedo quanto segue. Come può essere aggirato l'effetto del referendum abrogativo del 1987? Come potrà l'Enel procedere alla realizzazione di 4 centrali nucleari, avendo un'esposizione finanziaria da vertigine dopo la scalata dell'Endesa e l'acquisto anche della quota di Acciona? Agostino. Caro Agostino, lei pone 2 domande molto precise. Prima di risponderle mi consenta una premessa. Una delle cause della crescita limitata dell'economia italiana negli ultimi anni può essere individuata proprio nel più alto costo dell'energia rispetto agli altri paesi. E questo per la rinuncia totale al nucleare decisa dopo 3 referendum del 1987. Questi referendum, e vengo alla domanda, abrogarono la norma che consentiva all'Enel di stipulare accordi con l'estero per la realizzazione di centrali nucleari. Ma questa norma si riferiva alla legge istitutiva dell'Enel, una legge superata poi con la trasformazione dello stesso Enel in società per azioni e con la conseguente, pur parziale, privatizzazione. Ora l'Enel è una società come tutte le altre, che non ha quindi particolari vincoli nello stipulare accordi internazionali, come peraltro ha già fatto negli anni scorsi. Non si tratta quindi di aggirare i risultati del referendum, ma di prendere atto del superamento di fatto e di diritto di questi stessi risultati. La seconda parte della sua domanda riguarda l'esposizione finanziaria sempre dell'Enel dopo l'acquisizione quasi totale della spagnola Endesa. Indubbiamente, la società ha ora un forte debito, ma a fronte di questo debito ha anche aumentato non solo il patrimonio, ma anche la possibilità di generare flussi di cassa e, si spera, anche sostanziosi utili. È dovere di ogni impresa cercare di crescere e di sfruttare tutte le occasioni. L'accordo tra Italia e Francia va in questo senso e una volta tanto non dovrebbe dispiacere se una società italiana ha un ruolo da protagonista. Soprattutto nel campo dell'energia, fondamentale nel prezzo e nella disponibilità per la crescita economica e per la qualità di vita di ognuno di noi. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.